Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati a Salva Danaio, eccoci di nuovo insieme per l'ultima puntata della settimana. Allora, vi ricordate la trasmissione che abbiamo fatto venerdì scorso, quella in cui abbiamo dato spazio ai numerosissimi risparmiatori che stavano manifestando in piazza Montecitorio a Roma? Quelle persone avevano l'obiettivo di sollecitare, lo hanno fatto in maniera anche molto dura con la collaborazione di alcune associazioni dei consumatori, il governo ad introdurre una modifica che finisse nel decreto incentivi, visto che venerdì si stava approvando proprio quello, alla legge 166 del 2008, la famosa legge ad Italia, quella che allargava alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti, introducendo però una prescrizione di 2 anni al posto di quella di 10 anni retroattiva alle polizze vita intestate a persone defunte. Allora, la questione è complessa, anche riassumerla per noi è piuttosto complicato, però è una questione complessa della quale i malcapitati interessati avevano scoperto gli effetti nel momento in cui si erano presentati in posta o alla banca nel tentativo di riscattare la loro eredità, scoprendo di non poterlo più fare. Allora, potete immaginare che indignazione generale, che è quella che ha contagiato e coinvolto anche noi. La manifestazione di venerdì ha sortito gli effetti sperati, perché anche se facendola un po' sospirare per tutta la giornata, la modifica è arrivata e il governo ha deciso di eliminare questa retroattività. Quindi, da quello che abbiamo capito subito, è che sarebbero tutti salvi i soldi dei risparmiatori che possiedono polizze cadute in prescrizione prima dell'entrata in vigore di questa legge all'Italia. In realtà la questione non è ancora del tutto precisamente così chiara e così definita, per questo, visto che ormai abbiamo deciso di andare fino in fondo a questa questione, oggi ci ritorniamo per capire davvero se il denaro di queste persone è salvo e no, e chi rischia ancora di non poter recuperare quante o secondo noi legittimamente gli spetta. Allora, oggi ci ritorniamo su questo argomento, ancora una volta coadiuvati noi di Salva Danaio dalla nostra Federica Pezzatti, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Federica, anche buongiorno, per te ormai ci siamo appassionati a, tutti, sì, a questa vicenda. Fabio Picciolini, un altro appassionato suo malgrado, e venerdì scorso era con i manifestanti a Piazza Montecitorio. Picciolini, buongiorno, bentornato, segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno, grazie. E poi, allora, siccome poi la partita più importante di queste polizze che molti contraenti rischiavano di non poter riscattare era in mano a Poste Vita, questa mattina è con noi Claudio Raimondi, responsabile marketing e supporto commerciale per l'appunto di Poste Vita. Dottor Raimondi, benvenuto a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Molti degli ascoltatori che abbiamo sentito nella puntata di venerdì hanno scoperto di poter recuperare i denari che credevano perduti, altri invece hanno una situazione più problematica, e stamattina tenteremo anche di spiegarla per capire anche se ci sono i presupposti per intervenire successivamente, quando il provvedimento andrà all'esame del Parlamento, magari emendandolo di nuovo, per capire appunto se c'è l'opportunità, la possibilità di intervenire anche su questi. Vi ho ricordato il numero verde appunto per le vostre richieste di intervento. Scriveteci anche al 349-238-6666. Rapidamente un'occhiata alla borsa. Oggi mercato piuttosto tranquillo, senza spunti particolari. Abbiamo leggermente negative Parigi e Francoforte, che stanno perdendo meno dello 0,2%, un po' più forte ribasso di Londra, meno 0,39%, invece Milano, che è proprio ferma sulla parità, adesso anzi sta tentando di guadagnare in avanzata un po' di punti percentuali, in realtà più 0,07%, poca cosa. Milano oggi non riesce a fare di meglio perché è trascinata a ribasso dal settore assicurativo. Unipol, meno 5,79%, il gruppo ieri ha annunciato, oltre ai conti, la distribuzione del dividendo e contestualmente ha annunciato un aumento di capitale, una mossa che gli analisti non comprendono e infatti mandano a picco il titolo, che stamattina ha fatto anche molta fatica ad entrare in contrattazione, perdeva l'8-9%. Fondiaria, presenta i conti oggi e già accusa un ribasso di 4 punti. Monte dei Paschi ha presentato i suoi risultati stamattina, ne perde 3, evidentemente non sono piaciuti al mercato, nessun dividendo per gli azionisti del gruppo, solo per gli azionisti delle azioni di risparmio, che si vedranno riconoscere appunto una cedola da 0,01 euro. Anche Finmeccanica perde un punto e Fiat, anche in questo caso conti in presentazione oggi. Avete sentito prima nel giornale radio il collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan, il Lingotto sta perdendo quasi un punto. Segno più invece per Parmalat, più 2,85, in pregiro più 1,60, Unicredit più 1,38. La schiarita sul fronte greco oggi fa migliorare le cose anche per l'euro, che recupera 1,43 sul franco svizzero e 1,3393 sul dollaro. Per la borsa è tutto, ritorniamo alle nostre, per fortuna non sono nostre, ma sono di molti altri risparmiatori, di molti contraenti di queste polizze, che hanno rischiato di non poter riscattare quanto loro dovuto. Sentiamo. Con un blitz dell'ultimo momento, venerdì scorso il governo è intervenuto sulla questione polizze dormienti, inserendo nel decreto incentivi la norma che ne elimina la retroattività. Per buona pace di molti risparmiatori. Non tutti, però. La nuova disciplina sulle polizze dormienti si applicherà infatti solo ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, prima cioè che entrasse in vigore il decreto Alitalia. Ma anche per quelle prescritte prima il rischio è di non rivedere comunque i soldi. Nel caso in cui le compagnie li avessero già destinati al fondo per le vittime dei crack finanziari, non sarà possibile fare marcia indietro. Al momento possono tirare un sospiro di sollievo i clienti di Poste Vita con contratti prescritti prima dell'entrata in vigore del decreto Alitalia. La compagnia ha infatti già dichiarato di non avere ancora fatto alcun versamento al fondo anticrack. Ma per molti altri la situazione appare ancora traballante. Toccherà all'ISVAP, l'istituto di vigilanza del comparto assicurativo, scendere in campo per tentare di risolvere la questione delle polizze non ancora versate, ma scadute prima del 28 ottobre 2008. Certo che tentare di spiegare ad una persona che non ha una polizza di questo tipo nel proprio portafoglio, Federica, è davvero piuttosto complesso. Però, ecco, tu nei tuoi pezzi dei giorni scorsi dicevi, chiaramente... Si fa molta fatica a scrivere dei pezzi che siano leggibili, perché ci sono talmente tante precisazioni di date da fare che insomma una data su tutte precisa ce l'abbiamo, la 28 ottobre 2008, esatto. Uno spartiacque fondamentale, esatto, fra chi ha riguadagnato il diritto a riscattare queste polizze e chi invece rischia di veder sfumati comunque i propri investimenti. Peraltro su questi punti ci sarà, presuppongo, poi lo sentiremo, ulteriore battaglia delle associazioni dei consumatori, che già avevano contestato l'incostituzionalità della norma nella formulazione precedente, certo. E torneranno su questo punto. Comunque tu scrivevi sul Sole nei giorni scorsi, Federica: ai fini pratici la retroattività della norma è stata eliminata, salvo per i clienti di determinate compagnie, quelle che appunto sono state più solerti, cioè sono state più veloci nell'adempiere la norma della retroattività, perché era previsto che i fondi recuperati, quindi tutto ciò che era retroattivo, doveva essere versato, quello di competenza dell'anno solare 2008 doveva essere versato il 31 marzo 2009 in un'unica soluzione. Molte compagnie, cioè non si sa esattamente quante compagnie abbiano fatto questo, alcuni non l'hanno fatto, altri l'hanno fatto, dipende un po' dalla, magari anche dal numero di polizze, dalle problematiche contabili. Ma questa è una cifra che secondo te si potrà sapere o no? Ma delle stime, Anian, che è l'associazione di categoria, non ha stime esatte, lo può sapere solamente il Ministero dell'Economia, che sicuramente quei soldi li ha già incassati e probabilmente li ha anche già spesi, e quindi è per questo che sostanzialmente l'intervento c'è stato di abolizione della retroattività, però hanno ritenuto di non dovere restituire nulla a chi ha avuto già i cui soldi sono già stati versati al fondo. In sostanza si è intervenuti ma senza gravare sulle finanze pubbliche, perché il ministero ha ritenuto di non dover restituire nulla, e questo veramente è un po' strano, soprattutto per quei risparmiatori che si sono trovati magari ad avere un trattamento diverso solo perché clienti di una compagnia che ha agito con più tempestività, ecco. Infatti, anche perché in realtà agire con un po' più di calma era possibile, almeno secondo quanto ha fatto Poste Vita. Claudio Raimondi, ancora buongiorno, voi come vai? Non avevate ancora versato al fondo anti-crack somme che teoricamente erano già destinate a questo obiettivo? Specifico che insomma si sta parlando di casi proprio singoli, no? Perché erano riferiti al periodo che andava dal 28 ottobre 2008 al 31 dicembre, quindi in quei momenti lì se fossero emersi dei i sinistri prescritti sarebbero stati dichiarati, devono essere dichiarati al MEF e poi di conseguenza pagati. E noi non abbiamo proceduto a questo perché abbiamo fatto delle opposizioni sulla legittimità di questo versamento, in quanto a nostro avviso le nostre polizze potevano non rientrare nella casistica. Questo è il motivo per cui quelle poche situazioni che erano presenti, neanche quelle poche, sono state mai dichiarate. Allora, sì. La modifica legislativa di fatto in parte ci ha dato ragione e quindi noi siamo tra quelle compagnie che non hanno mai fatto questo versamento, quindi per quanto riguarda i nostri clienti il tema di anche con questa modifica c'è qualcosa che non va, non si applica per i nostri clienti, tutti quelli che a cui abbiamo nel passato dovuto comunicare il diniego alla liquidazione per via dell'intervento legislativo adesso si potranno presentare ad incassare tranquillamente. Chiaramente specifico che la legge ancora non è stata approvata materialmente, non è neanche pubblicato il decreto in gazzetta. Per cui adesso al di là di tutto, insomma, le cose che sono state scritte sono abbastanza chiare, quindi se si conferma tutto, assolutamente ciò che significa questa modifica è che tutti riavranno i loro soldi. Poi magari anche per aiutare gli ascoltatori che magari non sono interessati direttamente alla questione, ma sono interessati più in generale alla materia, magari attraverso qualche esempio pratico cercheremo di far capire esattamente, certo. Fabio Picciolini, allora, soddisfatti, non dico a metà, ma così mettiamo al 70% le associazioni dei consumatori. Sì, diciamo che è stata una grande vittoria, bisogna dire onestamente, ed è merito di tutti, partendo proprio da Salvadanaio che ha sempre affrontato questo problema, delle associazioni dei consumatori, dei cittadini. Venerdì siamo stati belli duri, insomma. I cittadini si sono costituiti da soli, solamente su Facebook, hanno fatto un gruppo molto molto importante e quindi è merito di tutti, nessuno deve prendersi la prima genitore. Poste che ha operato, devo dire sinceramente, è stato il dottor Raimondi, ha operato sinceramente in maniera molto corretta rispetto ai propri clienti. Quando vanno riconosciuti i meriti è giusto farlo. Detto questo, noi siamo sinceramente ancora allibiti, però per tre cose vorrei dire. La prima, un decreto legge normalmente ha un valore di urgenza, almeno si fa un decreto legge per questo motivo. A una settimana dal Consiglio dei Ministri ancora non sappiamo il testo dell'intero decreto di incentivi. Tralascio il fatto che siamo riusciti, appunto grazie alla forza della società civile, a far inserire questa norma dopo la chiusura del Consiglio dei Ministri. Sì, infatti è successo tutto venerdì nel tardo pomeriggio, lo posso testimoniare. Quindi primo problema di forma prima ancora che di sostanza. Avere il testo esatto, perché ovviamente che tutti abbiamo un testo più o meno ufficiale, ma il testo ufficiale è quello che poi ci consentirà di capire bene come stanno le cose fino in fondo. Secondo aspetto, quello che è stato detto, cioè ci saranno delle situazioni in cui per un motivo o per l'altro alcune persone resteranno fuori. E questo è un secondo problema che deve essere affrontato eventualmente nella conversione in legge. Il terzo problema rimane tutto il problema aperto. Io mi auguro, mi sembra così di aver capito, che Poste non crea nessun problema, ma rimane tutte le polizze vecchie che comunque sarebbero state prescritte lo stesso, 2003-2004. Che cosa accade per quelle polizze? Saranno anche queste rimborsate oppure no? Quindi praticamente l'emendamento di venerdì fa salve le polizze prescritte nei due anni precedenti al 28 ottobre 2008. Formalmente è questo. Ma quelle prescritte... Raimondi, sì. La legge 166 aveva circoscritto l'obbligo alle polizze i cui diritti venivano prescritti 1 gennaio 2006, 27 ottobre 2006, quindi si riferivano in buona sostanza dei sinistri accaduti dal 1 gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007. Per le altre non c'era questo obbligo, quindi Poste Vita nel caso specifico ha continuato a liquidare anche in vigenza della legge 166 le prescrizioni, cioè per quelle 2004, praticamente veniva mantenuta 2003. La prescrizione decennale non c'entra niente, la prescrizione decennale non ce l'abbiamo mai avuta, era solo una politica la nostra, no? E quella politica lì l'abbiamo continuata a utilizzare anche in presenza della legge, perché laddove non c'era l'obbligo a versare al MEF, quindi una polizza in cui il sinistro era accaduto nel 2004, noi anche se ci è stato portato dopo, e quindi parlavamo appunto delle date prima dell'entrata della modifica legislativa, noi abbiamo liquidato. Quindi in sostanza per quelle precedenti specificate? Continueremo a farlo. Picciolini, la legge si applica non ma la spiegazione del dottor Monti è esatta, però appunto magari doveva avere il pieno di non tutti fidarlo. Lo facevano forse, però così cioè, non credo l'obbligo. Più sinceramente non allora non siccome adesso stiamo andando in confusione, adesso vi faccio riparlare con chiarezza nella seconda parte della trasmissione. Quello che ci interessa è capire la situazione che Fabio Picciolini ha definito di quelle persone che resteranno fuori da che cosa, chi non avrà diritto ad andare a riscattare ciò che è frutto magari di tanti sacrifici di congiunti defunti e che comunque rimane fuori anche dalla nuova forma di tutela che è stata introdotta venerdì scorso con questa famosa eliminazione di una retroattività che io chiamo a questo punto eliminazione parziale perché non si interviene integralmente per tutti. Che questione, mi fa male la testa ogni volta che faccio una trasmissione su questo argomento, ma adesso tentiamo anche la strada degli esempi pratici, mi farò aiutare da Federica Pezzatti. Allora, cosa è successo nel 2008, il 28 ottobre, che è entrata in vigore questa legge, legge all'Italia. Federica Pezzatti, aiutami tu. Questa legge ha detto, d'ora in avanti, se a casa vostra, se nella vostra famiglia c'è una persona che viene a mancare e aveva una polizza vita intestata, se per questa persona questa polizza va in prescrizione, se non ve ne accorgete subito, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, dalla morte, dal decesso. Sì, dal sinistro, chiamiamolo sinistro come va chiamato. E quindi sbrigatevi ad andare a incassarla perché sennò dopo 2 anni non avete più diritto. Il problema di questa legge è che ha introdotto anche una retroattività di 2 anni. E quindi tutti i sinistri avvenuti appunto dal 1 gennaio 2005 in poi sono finiti in automatico, in teoria sarebbero finiti in automatico al fondo per le, se non erano stati nel frattempo ovviamente reclamati. Sia le scadenze che i sinistri sarebbero finiti in questo fondo, almeno così è parso di capire, visto che poi di fatto non è mai stata applicata se non nei casi in cui, appunto, abbiamo detto prima, qualcuno ha versato qualcosa a questo fondo. E quindi questo ha creato non pochi problemi anche alle compagnie come a Poste Vita, che appunto, avendo dato la possibilità ai clienti di incassare anche successivamente ai 2 anni le polizze, chiaramente c'erano delle disposizioni primarie che andavano contro quella che era la prassi di alcuni gruppi, ad esempio, e comunque quella che era la prassi fino ad allora, che era appunto quella di eventualmente rimborsare anche altre compagnie potevano rimborsare le polizze prescritte su sollecitazione dell'ISVAP, che normalmente interveniva, ha fatto anche delle circolari dicendo che poiché normalmente per reclamare l'eredità c'è tempo 10 anni, molti tribunali avevano concesso questa facoltà anche per il settore assicurativo e quindi questo stimolava le compagnie a rimborsare anche successivamente ai termini di prescrizione. Adesso cambia tutto perché quei soldi vengono incamerati in automatico al fondo vittime del crack, quindi le compagnie dall'ottobre 2008 in poi si devono attenere a queste nuove regole e questo è quanto abbiamo detto, che da lì non si sfugge. Infatti, eliminazione della retroattività di venerdì scorso significa che praticamente la retroattività per quelle polizze biennale è stata eliminata, per le polizze precedenti paradossalmente per le polizze precedenti è stata eliminata, per cui se c'è stato un sinistro in una fascia appunto che si è prescritto prima del 2008, paradossalmente, per dire, nel caso di Poste verrà rimborsato, mentre se il sinistro è avvenuto successivamente è diventato prescritto successivamente all'ottobre 2008, quel sinistro non potrà essere, la polizza non potrà essere riscattata agli eredi. E infatti, e questo tra l'altro è per rispondere anche a un ascoltatore, Saverio, che è stato anche l'animatore di un blog molto frequentato appunto su questo argomento, e lui ci chiedeva proprio, faceva riferimento nella sua lunga mail che ci ha mandato ieri ad un periodo preciso, le polizze relative ai decessi o scadenze successive al 27 ottobre 2007 vengono considerate non prescritte alla data del 28 ottobre 2008 e quindi non rimborsabili. Picciolini? Sì, eccomi. Ha sentito la domanda di questo ascoltatore? Dunque, il problema è se è stata presentata la domanda di rimborso, non è stata di riscatto, non è stata presentata. Questo è il punto, perché in quel caso lì credo, ma anche qui se serve il condizionale, che uno possa far valere appunto la richiesta che ha fatto, perché Poste o qualsiasi altra compagnia ha bloccato i fondi in attesa appunto della decisione di questo decreto. Dovrebbe essere, purtroppo lavoriamo sul condizionale. Ancora sul condizionale, sul vago, perché non abbiamo ancora appunto un testo scritto rispetto a tutto questo. Questo è quello che sappiamo fino a questo momento. Io direi adesso, Raimondi, ovviamente ritorno anche da lei, ci sono un paio di domande proprio su Poste Vita di un paio di ascoltatori, quindi vediamo poi che indicazioni concrete possiamo dare a questi amici che ci hanno chiamato all'800240024. Cominciamo con Emilio dalla provincia di Latina. Buongiorno Emilio. Sì, buongiorno. Ci dica. Senta, volevo chiedere al dottor Raimondi, poiché ho ricevuto la scorsa settimana una risposta per cui avevo chiesto il rimborso di una polizza che era scaduta praticamente il 17 settembre 2008. Sì. Volevo sapere, chiaramente qua facendo riferimento alla legge 166 dice che non mi spetta niente. Alla luce del nuovo decreto, del decreto incentivi, è necessario fare una nuova richiesta a Poste Vita provvederanno loro a elaborare? Se avviene in automatico. Dottor Raimondi, credo che qui valgano, come dire, le procedure regolari di riscatto di una polizza, visto che questa persona ormai è fuori dal problema. Se noi li abbiamo scritto, evidentemente ci è arrivato tutto il materiale. Io anzi ne approfitto per ricordare a tutti gli aventi diritto che poi dopo questi capitali si ha diritto se si presentano insieme i documenti, nel senso che va rispettata quello che è la procedura. La procedura prevede delle volte, in assenza di testamento, atti notori, cose, documenti di questo genere, che però li diamo per scontati che siano stati allegati nella domanda. Se la domanda è stata corredata correttamente, noi a questa domanda abbiamo risposto all'epoca, perché lui sicuramente ha una lettera, tra l'altro firmata da me, in cui veniva detto che non potevamo pagare, ma che in base a quello che è apparso e che sarà convertito, quello sarà uno dei casi in cui il cliente riceverà tutti i suoi soldi. Allora, un'altra domanda per Poste Vita è quella di Antonio da Pisa. Antonio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Guardi, grazie, perché io stamattina tanti complimenti non riesco a farmene, visto che mi faccio confusione da sola. Vabbè. Antonio, ci dica. Una domanda, io ho stipulato una polizza vita con Poste nel 2006, sono vivo e vegeto, mi devo preoccupare o devo lasciare qualcosa scritto? No, guardi, assolutamente, vede poi Antonio qual è, come dire, la confusione che si genera, che uno dice Poste Vita, Raimondi è lei? No, intervengo un attimo, perché sicuramente lui non si deve preoccupare del discorso, perché noi siamo tutti portati a focalizzare il discorso sui sinistri, no? In realtà qui si parla di diritti, allora i diritti dei clienti non sono soltanto i sinistri, ma anche le scadenze. Cioè, la persona che sta chiamando, per il momento non si deve assolutamente preoccupare, esatto. Si dovrà preoccupare molto quando, arrivata a scadenza, riceverà da noi una comunicazione che Esatto. Non della scadenza. E lui non fa niente nei 2 anni successivi. Sì, perché dopo non c'è più possibilità di riprenderli. Da adesso in poi la legge ha stabilito, cioè la modifica legislativa che si legge oggi. Questo deve essere il punto estremamente chiaro. Che da adesso in poi andranno dall'altra parte, quindi bisognerà tutto il sistema deve stare molto attento a quello che accade, non soltanto in merito ai sinistri, che è l'aspetto più clamoroso, ma anche rispetto alle scadenze. Immaginiamoci, e forse Picciolini se lo ricorda, tutte le polizze emesse negli anni 80, durate 20, certo, durate 30, eccetera, certo, andranno a scadenze dove potrebbero esserci richieste da parte dei clienti, perché magari effettivamente lì la dimenticanza è tanta. Caso specifico del cliente della provincia della Toscana, direi di star tranquillo, prima perché gode di buona salute, secondo perché appunto ha tutto il tempo di pianificare la corretta richiesta a Poste, nel caso specifico, ma a qualsiasi altra compagnia. Quindi infatti fate attenzione adesso, se vi siete dimenticati che avete fatto un versamento tanti anni fa, avete aperto un prodotto assicurativo di questo tipo, una polizza vita, chiamiamola appunto come si chiama, e ve ne siete completamente dimenticati, vi siete completamente dimenticati la scadenza, avete trascurato anche magari la comunicazione da parte della vostra compagnia o delle Poste che vi dice attenzione, il prodotto è giunto a scadenza naturale, avete 2 anni di tempo per andare a fare questo riscatto, perché se non lo fate entro questi 2 anni il denaro va perso, nel senso che va al fondo del Ministero dell'Economia istituito per la salvaguardia delle vittime dei crack. Qui dovremo aprire un'altra bella puntata, abbiamo fatto anche altre volte, poi vedremo la destinazione dei soldi in questo fondo, che sono sicuramente pochissimi rispetto alle necessità di risarcimento che ci sono. Però, Picciolini, il tema è anche questo. La disciplina dei conti dormienti prevede che, se non abbiamo fatto in tempo a risvegliare il nostro conto o il nostro rapporto finanziario con l'intermediario, possiamo risvegliarlo, dopo un tot di tempo, anche lo stesso Ministero dell'Economia. Per le polizze questo però non è possibile, quindi ancora una volta una disparità di trattamento per questi prodotti. Ma perché? Bella domanda, dovrei chiederlo a Tremonti, da, lo so. Da rischia tutto, no. Allora, diciamo che qui sono veramente le cose strane della legislazione italiana. Allora, partiamo da quest'ultima, perché non era poi la sola che è strana. Allora, non si può sapere quali sono state le polizze versate e non si possono riscattare. Cosa voglio intendere? Mentre per i conti correnti io faccio un inquiry, una domanda sul sito del Ministero dell'Economia, ovvero sul sito della banca, e vedo se quel dato conta, è caduto o meno nei conti dormienti. Per la polizza questo non è possibile, e questo è un primo passaggio. La stessa cosa peraltro capita anche per gli assegni circolari, per questa seconda cosa che andrò a dire. Ad esempio, per i conti dormienti c'è la comunicazione all'interessato, salvo ovviamente che non sia un conto al portatore. Per gli assegni circolari e per le polizze dormienti questo non è possibile. Se aggiungiamo questo al fatto che la prescrizione biennale non decennale, credo che forse questa, di cui parleremo ovviamente non oggi perché dobbiamo risolvere il problema attuale, cerchiamo prima di salvaguardare le persone oggi coinvolte che sono varie migliaia, però sicuramente è un problema su cui il legislatore dovrà tornare, perché è uno strumento finanziario la polizza vita, come uno strumento finanziario il certificato di deposito, quindi avere un comportamento omogeneo mi sembrerebbe il minimo, insomma. E Anna da Milano ci scrive: gentile dottoressa Rosciani, la sto ascoltando, vorrei sapere se questa prescrizione si attua anche a chi è in vita come me, la società non mi rimborsa i soldi versati in 15 anni scaduti nel 2008, Anna, è il 2010, sono passati 2 anni, teoricamente questa sua polizza è caduta in prescrizione ed effettivamente la società, sulla base della disposizione legislativa, ha ragione a comportarsi come si comporta, poi può essere tutto discutibile. Naturalmente i 2 anni non ci piacciono, preferivamo naturalmente la prescrizione decennale, quindi darvi più tempo, però magari 2008 è sul 2010, magari se la scadenza è arrivata, non so, ad ottobre 2008, magari è ancora in tempo. Quindi Anna, vada a verificare il mese della scadenza, perché siamo a marzo, quindi ancora 7 mesi di tempo, ne ha 9. L'ultima parte di Salvadanaio. Roberto scrive al 349-238-6666: mi domando come si faccia a dimenticarsi di un capitale accumulato per 2 anni addirittura. C'è gente che di soldi ne ha proprio tanti. Bellin, Roberto. Allora, qua non è che si tratta di dimenticarsi, qualche volta magari anche, ed è capitato agli sportelli postali, come anche magari con l'agente assicurativo che ha fatto sottoscrivere a queste persone dei prodotti assicurativi, è capitato anche che si suggerisse, io dico in totale buona fede, perché la mala fede non la voglio neanche prendere in considerazione, ma non è questo il discorso, che si suggerisse di mantenere lì l'investimento, banalmente perché era inutile portarsi magari a casa tutto questo contanto, perché magari, che ne so, l'intermediario suggeriva di non fare un investimento di altro tipo. Quindi non è una questione di dimenticarsi. Sì, certo, se perdiamo un caro, magari non abbiamo subito la freddezza, Federica, di andare a vedere quanti soldi questa persona aveva in banca o alle poste, quindi magari tante volte emotivamente non è... di solito le polizze sono usate magari anche perché escono dalla serie d'Italia, per cui di solito quando vengono fatte per persone un po' in là con l'età hanno anche uno scopo di lasciare appunto un lascito in eredità. Quindi secondo me normalmente appena purtroppo scompare magari una persona di età avanzata, penso che si faccia un po' un censimento di quello che... Certo è che se vai magari in posta e ti dicono non si preoccupi, c'è tipo 10 anni, è capitato, voglio dire, perché loro, non sapendo di questa legge, avevano anche usato questa politica commerciale che penso anche probabilmente a fin di bene, ecco. Quindi invece è diverso il caso in cui magari purtroppo ci sono delle polizze vita che morte improvvisa di una persona che magari ha una polizza vita. Chiaramente spesso non tutti dicono di averla e quindi non sempre gli eredi sono a conoscenza dell'esistenza di una polizza sulla vita proprio di puro rischio. Infatti. E in questo caso si rischia, cioè ci sono persone che magari hanno trovato dopo tanto tempo dei documenti, magari come succede nei fondi in casa, di cassetti, quindi in quel caso l'ISVA però si è sempre molto impegnata nel fare in modo che la compagnia risarcisse comunque, magari la vedova, insomma stiamo parlando di prodotti assicurativi molto, anche se, molto semplici, importanti, esatto, per i bilanci familiari, insomma. Quindi Vincenzo dalla provincia di Roma, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno, io volevo qualche informazione su una polizza che mio padre fece nel 2004-2005, di durata dei 5 anni. Mio padre è deceduto a maggio 2005, no, la polizza fu fatta a 2004 dicembre, sì, deceduto maggio 2005, sì. Quando io nel dicembre 2009 sono stato in banca per farmi liquidare questa polizza, c'era questa situazione e si sorge ancora niente per adesso. Certo. Io volevo sapere con la retroattività che è stata annullata, sì, la situazione vale mia, anche per lei in sostanza. Volevo sapere la situazione mia. Certo. Come... con che, posso sapere, Vincenzo ha sottoscritto con una compagnia, no? Questa polizza. No, ma non ci interessa il nome, una compagnia assicurativa e non è una polizza di Poste Vita. No, posso una compagnia. Compagnia, era per sapere solamente, facciamo solo questa differenziazione. Picciolini, in che situazione si trova Vincenzo? Ma questo è il caso che dicevo all'inizio, perché con Poste Vita so che operavano, come diceva prima il dottor Raimondi, ma non tutte le compagnie sono diciamo così comportate alla stessa maniera. Secondo il mio punto di vista, ma credo sia anche secondo logica, dovrebbe a questo punto qui essere salvaguardata e quindi poter adesso chiedere il rimborso, il riscatto di questa polizza. Ripeto, io la certezza totale, forse sono ormai troppo navigato, diciamo così, per fidarmi a però, prescindere, come diceva Totò, io vorrei che la norma fosse un attimino ancora sulla base di quello che abbiamo, però dovrebbe essere salvaguardato il nostro ascoltatore. Ha tremato chiedo un po' Federica. Raimondi, sì. Chiedo conforto a Raimondi. Sì, comunque, anche se non è il suo settore. Raimondi, secondo lei, a giudicare dalle date indicate dall'ascoltatore? Non è la mia polizza, non è la nostra polizza, no, il settore è quello. E confermo che si è detta così, da come l'ha scritta lui, assolutamente. Secondo voi che cosa conviene fare adesso ai contraenti che sono un po' in, come dire, nel dubbio e ai quali non abbiamo chiarito questi dubbi, perché naturalmente essere chiari su questo tema è praticamente impossibile? Conviene farsi vivi direttamente, avendo sentito le notizie di stampa, farsi vivi direttamente con l'intermediario che ha venduto il prodotto, oppure aspettare che arrivi una comunicazione? È sempre meglio farsi vivi. Guardi, posso rispondere? Sì, Raimondi. Io direi che adesso noi manderemo una comunicazione a tutte le persone in cui spiegheremo a tutti sia che cosa è successo, sia perché, sia le modalità per riprendere i soldi. Quindi a tutti spiegheremo, daremo questa notizia, quindi non c'è bisogno di chiamarci, perché se ci chiamano anche ai numeri verdi noi possiamo soltanto ripetere quello che oggi è apparso sui siti e dire quindi che assolutamente le polizze saranno rimborsate per quanto ci riguarda. Tra l'altro mi stava sollecitando un'osservazione Gaia Romani, che è molto più sveglia di noi dall'altra parte del vetro. Il caso dell'ascoltatore di prima, Vincenzo dalla provincia di Roma, che dice adesso teoricamente con l'eliminazione della retroattività io potrei, ma le compagnie non hanno già trasferito al fondo in questo non caso, tutte, nel caso di questo ascoltatore? Non tutte. Quindi potrebbe, bisogna vedere, questa è l'altro grande limite di questa norma, perché comunque creerà disparità in ogni caso. Quindi Vincenzo dovrebbe ricevere una comunicazione chiara sul fatto, guardi, i suoi soldi sono già stati trasferiti al fondo? Vincenzo era il caso ultimo di cui abbiamo parlato? Sì, Raimondi. Guardi, potrebbe essere che Vincenzo ha fatto questa comunicazione dopo il 27 ottobre 2008 alla compagnia, e allora a quel punto bisogna vedere quando, se è successo dopo il 27 ottobre 2009, e allora sì, se è dopo il 27 ottobre 2009 sono andati in prescrizione, se l'ha chiesto, se è accaduto dal 27 ottobre 2009. Se è accaduto che cosa? Il sinistro? Se il sinistro è accaduto a maggio 2005. No, ma assolutamente, quindi il sinistro si è prescritto l'anno dopo, maggio 2006, e quindi la norma non si applica. Adesso c'è da capire se la compagnia, quando gliel'ha detta lui alla compagnia, perché se lui gliel'avesse detto dopo nel 2009, se non gli ha detto il 2009, assolutamente deve stare tranquillo, non è la nostra compagnia, ma parlo per tutti. Okay. È così, se è il 2009. Io, mamma mia, guardi, Federica, perché di fatto il rischio era soltanto, e lui l'avesse detto tra il 27 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, a quel punto per la compagnia del signore che ha telefonato la polizza era prescritta e ricadevano le regole della legge, e quindi l'avrebbe dovuta dichiarare e versare nel 2009. Dato che questa cosa lui l'ha fatta nel 2009, quindi la compagnia nel 2008 siamo sicuri che non l'ha potuto dichiarare al MEF e versare i soldi, allora questa persona riceverà i soldi. Ovviamente il consiglio è rivolgersi alla compagnia, ma credo che quello che faremo noi lo faranno un po' tutte le compagnie. Scuota la testa Federica Pezzatti. No, io non volevo solo dire che, essendo prescritto di fatto a maggio 2006, la compagnia potrebbe opporsi, no? Però l'ISVAP dovrebbe intervenire a questo punto, quindi si fa un bel reclamo all'ISVAP, che ha un ufficio reclami molto efficiente, e normalmente l'ufficio reclami intercede presso la compagnia in modo che la compagnia credo che se abbiano comunicato al cliente che non lo pagavano per via della legge, non c'è più modo, non c'è più il presupposto per questa contestazione, è come se avessero rinunciato a questo diritto di prescrizione, e quindi ti pagherei, però non posso perché devo darlo. Certo che ci fa passare quindi, Raimondi, ma proprio mi passa tutta la voglia di approcciarmi a una qualsiasi polizza vita da qui in avanti. No, però non è così. Ci mancherebbe, va bene. Perché il tema non è un tema da poco, eh. Il tema è importante, cioè le polizze sono dei contratti, hanno delle loro regole e quindi vanno comunque rispettate. Le compagnie, devo dire, parlo anche per il resto del sistema, difficilmente hanno mai opposto il diritto alla prescrizione, quindi hanno incamerato i soldi. E poi la legge di fatto era nata proprio perché, pensando che le compagnie facessero queste cose, intervenivano dicendo prendiamo i soldi dalle compagnie, non si erano mai pensati. E invece ci siete andati di mezzo volto. Dopodiché, pro futuro questo fondo si riempierà di soldi sicuramente, sono quelle delle scadenze. Vediamo che per quanto riguarderà i sinistri, le persone saranno sempre più attente e accorte, perché in 2 anni si prescriveranno i diritti. Allora, mamma mia, 30 secondi di tempo. C'era Simone da Vicenza, non riesco a farlo intervenire. Simone, leggo io la sua domanda. Il cognato è deceduto a gennaio 2010 di quest'anno, e beneficiare la moglie di questa polizza, come comportarsi? C'è un anno e mezzo di tempo ancora prima che si prescriva, però li vada a riscattare, che forse perché è meglio, poi magari cose cadono nel dimenticatorio con qualche altra legge all'Italia 2 o con il nome magari di qualche altra società in difficoltà. Grazie Federica, grazie a voi dottor Raimondi, grazie, a presto. Adesso la lascio a questo bel ginepraio per i prossimi mesi. grazie molte. Picciolini, lei invece naturalmente deve intervenire su tutto quell'ambito che ancora non è chiaro. Lo sa già. No, noi sicuramente interveremo, perché va migliorata questa norma, perché sono troppe le cose che non va bene. Io saluto l'ascoltatore che mi scrive: sei proprio una capra, evidentemente. La prossima volta faccio venire a fare lui la trasmissione, così magari è più contento. Grazie a tutti, ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana da Deborah Rosciani.